Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? E di nuovo in diretta con i magazine, oggi estesi perché iniziano con un'intersezione e una relazione, parola che sarà protagonista in un'altra funzione di comparazione. Ma quante rime che stiamo facendo in maniera totalmente involontaria, a seguire dopo la pubblicità con la rubrica in mostra. Però partiamo con altri suoni e altri suoni, quindi dal manifesto nell'inserto di sabato troviamo per gli incontri la novità, il nuovo disco di David Holmes. Da un po' non sentivo parlare di questo produttore, DJ, grande originalità pur mettendo assieme sensazioni vissute, la capacità sia tecnica nel DJ Works, il gusto e anche il modo di alzare l'asticella, come amo definire la curiosità per il fruitore attento, sono gli ingredienti protagonisti di questo musicista, della creatività, tra l'altro molto importante, di David Holmes. Le metamorfosi di David Holmes, a pagina 12 di Ultrasuoni, oggi con altri suoni. Inarrestabile e imprevedibile, l'artista di Belfast racconta il nuovo album solista, un lavoro intriso di impegno sociale, molto critico verso le politiche del Regno Unito. Occhio alle sue produzioni per cinema e TV. Sì, lui ha portato grande contributo nella produzione di colonna sonora, anche video arte e colonne sonore in genere per Immagini. Iniziamo allora con un David Holmes che ho conosciuto io attraverso dei lavori, lui in attività già da un po', dal 97. Nel 2000 arriva il suo primo successo con questo disco che ha delle particolarità di ricerca molto interessanti. Bow Down to the Exit Sign, il brano che inizia la nostra mini playlist dedicata al DJ di Belfast, definirei più produttore oltre che musicista David Holmes, e quindi ce lo ascoltiamo, poi rientriamo e continuiamo ad analizzare la relazione tra queste metamorfosi. A tra poco. That's hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rush. Trying to make it real, trying to do it. But compared to what? Compared to what? Slaughterhouse is killing homes. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks are rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love that's thinking those things. Trying to make it real, but compared to what? Try to make it real, Riconoscibile questa versione, questa interpretazione del brano Soul Compared to What, le collaborazioni, la voce è del musicista rap Carl Hancock Rooks. Un brano soul che ho proposto anche con l'interpretazione di Jason Rebello, la voce di Carmen Landi e qui invece con sonorità distorte di una alternative hip hop. Anni 90 fino ai primi anni 2000, questo disco è il disco che l'ha portato al successo, Bow Down to the Exit Sign. Segue una sua selezione di brani remixati. Lui comunque ha una grande attinenza tra musica per immagini, soul e ovviamente una struttura di alternative hip hop con questi motivi di ripresa selezionati da brani già in narrazione musicale ma ripresi in maniera assolutamente originale. È un insieme di ispirazioni che lui sa portare con grande energia e, come ho detto, con una forza incisiva molto potente. Questo brano è di Shaggy Otis, appunto nel DJ set Come Get I Got It, ripreso dal disco che vi ho presentato brevemente poc'anzi, un suo DJ set di brani remixati. David Holmes. Arriva il mix. incluso nel campionare questi brani veramente molto fantasioso e talentuoso e di ricerca. Infatti mi ha portato al refuso immancabile nella presentazione. Lui è Johnny Otis. Shaggy Otis è il figlio. Comunque quello che più importa è in un soul molto crudo, un hip hop alternativo, il motivo di continua ricerca. Abbiamo ascoltato prima il lavoro che ha portato al successo David Holmes, Bow Down to the Exit Sign. Ora questa sua selezione concludiamo nel 2004 con questo The Free Association, con tante collaborazioni anche in questo caso. Arriva con l'uscita di un prodotto in produzione, scusate il ripetere, ma un lavoro da solista per David Holmes, DJ e producer, protagonista in Ultrasuoni e anche nella rubrica dei magazine quest'oggi Altri Suoni. Eccolo qui che porta a conclusione questa mini playlist di presentazione. Andremo a breve in pubblicità e poi si rientra e avremo, eh sì, la parola giusta è relazione, con la rubrica In Mostra. A tra poco. One in ten will tend to see A to B as A to Z. One, two, three, associates. Free the ABCs, don't wait. Free the peas upon my plate. It's not too late to go create. It's time to free associates. One is four, the five to go. Deviate from what you know. Generate, it's not too late. It's time to be associate. Open up the congregate. It's time for you to participate. Calibrate and correlate. It's time to free associate. One in ten will tend to see A to B as A to Z. One in ten at ten to eight will tend to free associate. Free the ABCs, don't wait. Free the P's. My life, my life, my life, and the sunshine. everybody loves the sunshine. Sfumando, magari appare. Tutti quanti amiamo il sole. Everybody loves the sunshine, al vibrafono Roy Ayers per questo inizio ufficiale dei magazine. Quindi, beh, come ben sapete, io sono propenso ad assecondare il caso, anche se di casuale in questo caso non vi è tanto. Anzi, stiamo parlando di un aspetto ben preciso che vede un protagonista di cui vi parlerò a breve in approfondimento su Alias per quanto riguarda le esposizioni. Beh, una casualità mi ha portato alcune voci che troveremo in questo motivo per conoscere un autore, un umanista, ma allo stesso tempo un matematico. Sto parlando di Luca Bartolomeo Pacioli, detto anche il Pacciolo. Nasce nel 1445, nasce a Borgo San Sepolcro, da lui De Divina Proporzione, che scriverà nel 1497. E questo studioso, questo intellettuale, perché è così importante? Intanto perché a lui si deve la nascita della ragioneria. Pensate un po', quante figure hanno trovato motivo di approfondimento nell'arte, nella filosofia, nello studio matematico e nelle sue applicazioni. E per quanto riguarda il caso, beh, il caso non esiste, no? Mi trovo in una delle più belle città del mondo, una underdog nella bellezza artistica. Se vi parlo di Vicenza, beh, ci vorrebbero, non so, almeno non so quanti breakfast club, tanto sottovalutata quanto meravigliosa. Pensate, a proposito di ragioneria, Vicenza era la banca del Doge, città ricchissima, città di splendore, l'oro di Vicenza, tanto più che parleremo di una proporzione aurea. Un viaggio tra emozioni, armonia e conoscenza, una relazione tra materia e spirito, tra luce e chiaroscuro, tra il colore e il bianco e nero, tra la linea e tutto ciò che può essere un'armonica rotondità, tra un'architettura e altre interpretazioni artistiche. Di questo nell'esposizione, che è in Basilica Palladiana, quindi essendo a Vicenza non potevo certo trascurare la bellezza della Basilica Palladiana. Oltretutto, in maniera generica, per visitare per l'ennesima volta, e non mi stancherò mai, ci sarà una prossima volta in cui sarò a Vicenza, anche perché mi piace conoscere in ogni minimo dettaglio i posti di cui mi innamoro. Oltretutto, la Basilica Palladiana è sede espositiva. Le mete sono diverse, dalle ville fino ad arrivare area Santa Corona, che è una delle sedi espositive, tra l'altro, ed è all'interno del relazionesimo La Proporzione Aurea, con un capolavoro assoluto del Bellini. Tante sono le motivazioni di comparazione e di dialogo, e tanto più che alla sera di sabato, dopo aver dato un'occhiata ai magazine che non avevo ancora sfogliato, prima di cena dico: do un'occhiata agli As del Manifesto e trovo come approfondimento relazionesimo La Mostra, La Proporzione Aurea. Dico: ma come? Ma è quella che è in Basilica Palladiana. Quindi esco in fretta e furia, corro, dico: chissà, magari riesco a trovare qualche voce, chissà, magari con una grande disponibilità avrò modo di fare, seppur breve ma esplicativa, conversazione con delle voci che hanno organizzato questa esposizione. E così è stato. Vedete, il caso non esiste. Da un'idea di Ombretta Zugliano, l'organizzazione di Catti Panni, che sentiremo in dialogo appunto per conoscere questa Proporzione Aurea, la curatela di Rolando Bellini. Avremo anche ai microfoni, per quanto riguarda un aspetto completo di questa esposizione, Erika Tamborini, artista. E quindi direi di iniziare con quello che è stato un sabato sera che non ti aspetti, ma che è stato quanto mai emozionante. Per Radio Città Fujiko, nella rubrica Magazine, però andiamo in mostra. Siamo a Vicenza, la città dell'oro, una città meravigliosa, e veramente è nato questo motivo di incontro che mi ha emozionato particolarmente, non solo per la casualità ma per i contenuti. Intanto siamo con Catti Panni, presidente del relazionesimo. E com'è nata questa idea? L'idea nasce come viaggio, perché il relazionesimo vuole, ha come vision cambiare il mondo, e per cambiare il mondo dobbiamo parlare alle persone, ai cuori delle persone. Quindi questa mostra ha questo obiettivo, veramente far viaggiare le persone per riattivare questo muscolo che è il cuore e farlo parlare. Passiamo ora al co-curatore dell'esposizione, e quindi, visto che siamo in una situazione di percorso, anche di dialogo tra una sorta di classicità e un'esposizione nel contemporaneo, ci può dire qualcosa di più su qual è il percorso in mostra? Intanto grazie della domanda, perché questa mostra ha un'intenzione che è quella di un viaggio iniziatico, e dunque è il coinvolgimento di un pool di artisti che portano a un incontro conclusivo che è una catarsi in qualche maniera, all'insegna di quel noto affermazione di Leonardo: miseri mortali, aprite gli occhi, cioè il saper vedere, di fonte leonardiana, attraverso la guida di Luca Pacioli, quindi la ricerca della sezione aurea, no? Quindi della divina proporzione, che è un incontro pilotato con il fare arte, certo, e attraverso grafici, filmmaker e quant'altro, musicologi, arrivare attraverso queste sinestesie a scoprire un atto finale che è dato da una parte una figura storica imponente che è Michelangelo Pistoletto, no? Che ha il pregio, almeno a mio avviso, di aver concluso un'esperienza da protagonista, che è l'arte povera, che è il postmoderno e quant'altro, con questa apertura, con questo ponte gettato oltre il guado della, certo, fine di un secolo, che è il Terzo Paradiso. Con questo Terzo Paradiso che cosa ha fatto Pistoletto? Semplicemente ha aperto un dialogo con le nuove generazioni. Lo fa attraverso la figura emblematica di Leonardo, attraverso l'uomo Vitruvio di Leonardo, che poi è una delle chiavi di lettura che tiene insieme questa operazione. Was hiding in her eyes. would you try to make amends? Or simply sigh and tell your friends? Did you see her face that day when you turned and walked away? Yeah, it's a gamble, more or less. Sometimes it works out well, I guess. Paths are blocked and ways are lost. Plans are changed and stars are crossed. Seasons rush as time goes by, and no one knows the reasons why. And now you're back in touch, my friend, haunted by what might have been. Now what advice should I give? Non è stata un'esposizione immediata, è un'esposizione strutturata fra installazioni, un dialogo con il classico e il contemporaneo, il dialogo tra l'altro con la sede espositiva stessa, la Basilica Palladiana, la città del Palladio, di cui parleremo con il curatore Rolando Bellini nell'entrata di secondo segmento della nostra conversazione. Abbiamo citato Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Oh, it will sink beneath the waves. Learn to play tender heart, face to face. È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente e unicamente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, che è sviluppato dall'intelligenza umana, dalle dimensioni globali raggiunte con la scienza e la tecnologia. E questo paradiso ovviamente è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altro genere, insomma, di artificio, e si è formato un vero e proprio mondo artificiale, una progressione esponenziale di tutto ciò. Il Terzo Paradiso di conseguenza è una terza fase dell'umanità che si realizza nella connessione equilibrata tra l'artificio e la natura. Relazionesimo. To warn you, saw the wind and ripped the storm. È una guida come la figura di Luca Pacioli, come ho detto, uno studioso, un intellettuale, umanista e un matematico. Già mettere insieme queste cose, la relazione tra tutto ciò, ha a che fare con le relazioni dei paradisi appena descritti, eh? How come you didn't realize the truth was right there in her eyes? Perhaps in time, circumstance, you may have another chance. Ne darà una interpretazione, una consapevolezza, parola che ritorna, una artista, Erika Tamborini, che appunto ho coinvolto in questo nostro dialogo, dove tra classicità contemporanea ha portato una visione quanto mai particolare, che invito appunto all'attenzione dell'ascolto. Intanto abbiamo il grande genio, siamo a Vicenza del Palladio, e quindi una sede espositiva meravigliosa, e tutto ciò tra relazioni di incontro con il più grande architetto, direi proprio che è qualcosa da non trascurare, anzi tutt'altro. Lega anche a Palladio, anche a questo contenitore straordinario vestito da parata, con questo abito da esportazione che ha costruito Palladio, che diventa il simbolo di una presenza anche di Venezia sul territorio, e poi di quello che sappiamo, no? Perché certo, è una pietra angolare di un percorso storico. E finalmente dialoga con un altro artista di nuova generazione che attraverso lo stesso tema, cioè il lavoro sull'uomo vitruviano, ne dà un'altra lettura, un'interpretazione, non più decostruendo ma costruendo una nuova narrazione che è Etica Tambolini, che è quella signora. Bene, con la quale oltre ad avere il piacere di conoscere anche il piacere di conversare, quali emozioni? Sicuramente c'è tanta consapevolezza, cioè il relazionesimo, credo che con questa mostra riesca bene a rendere consapevoli di un legame tra il passato, i valori miliari proposti da Pacioli, da Leonardo da Vinci, fino ad arrivare all'oggi. Io espongo nell'ultima sezione della mostra, sì, dove propongo la donna Vitruvio, quindi una mia interpretazione non femminista, ma proprio perché sono donna, ma voglio vivere in prima persona la posa vitruviana e quindi tutti i significati, è un'installazione che passa dalla pietra alla luce, quindi con un passaggio da materia alla non materia e quindi forse portatrice anche, interprete dei valori di relazionesimo, cioè è il valore che non per forza è materiale, ma è soprattutto spirituale e di valore, insomma, altro. Io vi ringrazio tutti per questa disponibilità e vi auguro, oltre che buona serata, anche un buon lavoro. Grazie di cuore. A lei. Grazie. Grazie, grazie infinite. Dritti seppur in levare di Andrew Peckler, e questa rotondità dub è una colonna sonora ulteriore per la mostra appena presentata. Sì, la mostra è terminata ieri, l'ho voluta portare anche in previsione futura. Secondo me l'idea, a seconda di diverse sedi espositive, ha motivo di essere presente, perché l'attinenza con quella che è la sede espositiva e i concetti appena espressi è molto molto forte, e quindi penso che abbia una visione di percorso più ampio, ed è per quello che ho voluto portare, non solo per l'importanza di questa e anche per la presenza sui magazine all'interno del manifesto, ma per eventuali percorsi futuri. Quindi grazie alle voci che hanno collaborato per questo inizio dei magazine, un po' di musica, poi torniamo tra poco. Abbiamo parlato della materia, della pietra, e ci colleghiamo a un articolo che è sulla Domenica del Sole 24 Ore. A tra poco. We'll be right back. cambiando magazine, lasciando questa colonna sonora, quando sono le 8:26 minuti, tra pagina 12 e pagina 13 del prestigioso La Domenica del Sole 24 Ore, vediamo anche la relazione, il confine fra le pietre e le persone, e non solo lo stupore davanti a queste forze. Ma andiamo con ordine. Federico Lusetti mostra una possibile via per trovare ai Sassi un posto nel mondo umano e uno spazio agli umani in quello minerale. E intanto vediamo il confronto. Non è un tragitto facile, ci pone molte domande su noi stessi, ci obbliga ad affrontare tante questioni. Eh sì, anche perché il connubio con l'esposizione di Proporzione Aurea a proposito di minerali e la magia che troviamo, una magia assolutamente minerale e naturale per quanto riguarda determinati disegni che la natura crea all'interno o anche al di fuori in aspetto immediato di queste pietre, che definirle solo pietre a volte sembra riduttivo. Supremo decifratore Roger Calois della grafia delle pietre, le loro forme precedono la storia, fanno prevalere la legge dell'equilibrio, l'uomo ne contempla la bellezza. Ma non solo, nell'articolo di Carlo Ossola troviamo che da qui c'è lo studio per quanto riguarda ovviamente la geologia, le ere della terra, le capacità di percorso dei cambiamenti che ha vissuto. Ci meravigliamo, l'impronta fossile di una felce qui ritratta a fondo pagina, ogni relitto che abbia subito la violenza dei venti o di alte temperature o di bassissime temperature, e tutto ciò quanto ha ispirato grandissimi artisti, da Leonardo, dallo stesso Palladio appunto, come abbiamo portato in osservazione in precedenza. Tutto ciò lo dà La Domenica del Sole 24 Ore in un doppio articolo che vede cultura e ambiente all'interno di questi lavori e di questi saggi di cui vi parlerò a breve. Intanto un po' di musica, Play Your Game, mettiamo un po' di soul per alleggerire dei contenuti più elettro ambient, la voce di Barry White, e tra pochissimo andiamo in pubblicità, poi si rientra e continueremo a parlare di pietre, a tra poco, anche preziose, eh? You touch it up, but don't you know you can't hide. No, no, baby, when you give it up, it's only enough to get me by. You're playing a game, it's so plain. You want me to win. I'm willing to play whatever you say, if love is the end. Playing your game, baby, your game, baby, just you and me. Playing your game, baby, your game, baby, nobody but you stop. You know what you got is what I need. Oh yes indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee. That you're playing a game, it's so plain. You want me to win. Girl, I'll play whatever you say, if love is the end. Playing your game, baby, your game, baby, Prova a indovinare quanti anni ha il minerale terrestre ritrovato ritenuto più vecchio. Per me è impensabile proprio. Quanti anni ha? Relazionesimo nello spirito e nella materia, con una proporzione aurea, una divina proporzione di cui abbiamo parlato, ispirandoci all'esposizione di Vicenza, ma anche a Fra Luca Bartolomeo Pacioli, detto il Pacciolo anche, e vi è in questo momento invece un aspetto più di pietra, che così poco romantico, cuor di pietra, si dice, beh, pensateci un attimo prima di attaccare qualcuno con questi appellativi, perché magari anche le pietre, beh, forse un cuore non l'hanno, ma sanno raccontare tantissimo, eh. I really don't know, I really can't say. E sono belle anche, eh. Why you're affecting me this way. E non sto parlando di preziosi in questo caso, qua stiamo parlando di storia, come nel libro vi ho detto che avrei citato almeno il titolo del saggio scritto nella pietra, minerali collezionati e descritti da Roger Calois, è un volume appena uscito per chi ne fosse interessato, l'editore Franco Maria Ricci. Questa collezione è una parte a Villa Medici sulle orme di Cailua e vi ho detto quanti anni. Allora, il minerale più vecchio ritrovato, ed è ritenuto il più vecchio, però almeno di quelli di conoscenza, appunto dopo ritrovamenti, è di 44 miliardi di anni. Uno più giovane invece, questo è un infante, è ritratto qua in fotografia, però è molto inquietante, perché è disegnato perfettamente un viso antropomorfo, il ciotolo di Makarangapt, spero di averlo letto bene, 3 milioni di anni e ancora molto enigmatico. Lo metteremo magari come immagine di copertina a questo viso molto arcigno che la natura ha disegnato perfettamente. Pagina più per il tempo libero, la lettura di Giuseppe Barbera. I muretti a secco, quindi fatti di pietre, sono comunità di individui, no? Era un posto di ritrovo, no? Al muretto, il primo che arriva al muretto, ci troviamo al muretto, è dietro il muretto. doppio taglio, quello che invece rimane nelle pietre, che in questo caso non sono armi ma sono veramente fotografie di storia per tutti i tempi, quello che invece l'uomo vuol cancellare. A pagina 15 sempre della Domenica del Sole 24 Ore parliamo di cancel culture, come politically correct, queste armi a doppio taglio che purtroppo fanno a volte più male che bene per quanto riguarda soprattutto quello che così viene definito il mondo progressista, quanto mai in difficoltà. Abbiamo letto anche dalle prime pagine purtroppo il senso dell'antico, l'infantilismo USA, i tweet in libertà, aberrazioni identitarie da rifiutare, ma in Italia il rischio di rimozione passa soprattutto dalla mancanza di una seria riflessione sulla disciplina. Beh, su questa argomentazione potremmo avere, ognuno con la propria opinione, un motivo di andare oltre. Viene anche citato qui il generale Vannacci, di cui appunto abbiamo dato dalle prime pagine il suo volere di candidarsi attraverso il denaro guadagnato dalla vendita del suo, chiamiamolo, libro con contenuti di estrema destra, e per la cancel culture volere cambiare e stravolgere anche fiabe come Biancaneve e allo stesso tempo Peter Pan. Chissà, Peter Pan potrebbe avere qualche sospetto, non so, campanellino, qualcosa, ma non credo che andando con queste attenzioni, diciamo, a parte che io sono contro ogni tipo di censura, però si diventa anche ridicoli a parlare poi di tutto ciò con argomentazioni di tal fattura. E a pagina 15, per quanto riguarda i classici, sulla Domenica del Sole 24 Ore, e vi è questa immagine di cui vi darò poi descrizione a breve. Intanto mettiamo un po' di musica, siamo vicini alla conclusione e abbiamo un ottimo motivo per dare un'occasione di pace. Give a peace chance, lui è Liston Smith, ci sentiamo tra poco anche per i saluti. dicevo dell'immagine a corredo dell'articolo Cancellare oltre la cancel culture di Alessandro Schiesaro, e il commento è con una fotografia. Appunto, ne volevo dare breve e sintetica descrizione di questa ragazza o ragazzo. È un viso bellissimo, purtroppo così squarciato, ferito, ecco, non voglio essere poi troppo, ferito da una cicatrice sulla guancia molto molto visibile. È un viso classico, è un'immagine classica, se vogliamo, qui ripresa con un bianco e nero molto particolare, e c'è questo intruso che è una cicatrice che va a incidere la guancia della protagonista o del protagonista. Beh, la foto è di Mimmo Iodi, c'è Senza Tempo, e alle Gallerie d'Italia in un'esposizione a lui dedicata fino al 7 gennaio 2024. E anche domani andremo in mostra, no, domani è Mood Groove, però andremo in mostra perché a breve pare sia in esposizione la mostra sulla Fortitudo, di cui abbiamo già dato qualche citazione, qualche anticipazione molto vaga. Domani vedremo se portare con ospiti in studio l'approfondimento per il Mood Groove in dialogo, in relazione con la rubrica in mostra in questo caso. Per la giornata odierna, a breve l'EDP enciclopedico, seguirà Liberi Dentro e poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Vi invito poi a restare in frequenza sui 103.1 con Caffè e Paglia, che porterà a termine la nostra mattinata dalle 10.30 alle 12.30. Mingo and Company saranno ai microfoni di Radio Città Fujiko. Con questo The Party Freaks, Miami, la nostra sigla di chiusura, mi raccomando, vi do l'appuntamento a domani, penultimo martedì anno 2023, per la prima colazione in diretta assieme. E dal vostro William Piana un grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio, un buon lunedì e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani, ore 7, Breakfast Club, ciao, ciao, ciao. Let me take